chiesto cosa fosse l'amore. Qui è scienza di sensi, una vita norma, ed io allora non so amare. Felice insegui la coda, chiudi il cerchio antico di un gioco, e quando la raggiungi allora ne amo. E quando la raggiungi allora è catene strette ai miei polsi, non voglio più catene, non so più pregare o ho troppi rimorsi e piango nel dolore. Ed io che volavo sempre cercando la mia libertà, voglio catene strette ai miei polsi, ma libero. Che dolore, lo sguardo dell'uomo coperto dal buio non vede più l'amore. Ed io che volavo sempre cercando la mia libertà, non voglio catene strette ai miei polsi, non voglio più catene. We'll be right back. è una notte d'estate e una giovane donna mi stringe il suo seno come un bambino. I suoi biondi capelli bagnati di mare, sopra la pelle salsedine blu. La notte finisce, scompaiono stelle, un'alba, un'ora, poi lei partirà. Che giunga la luce del sole, mi dona un anello con scritto il suo nome. Cade una lacrima giù nella sabbia e esce un fiore color dell'amore. D'improvviso m'accorgo che la mia donna, con un pallido viso svanisce nel vento. Disperato continuo a chiamarla per nome, ma lei non sente più, sta tornando lassù. Senza di lei. voce di lui si sente stanco, pieno di vergogna. Spezzarne la voce, posso arrestare l'acqua, bruciarne la vita, entrare nel sole, distruggere il vento, scagliare le stelle nel firmamento. Saggezza al bambino, a tenebra e luce, ho dato un pensante, la danza più dolce, la vita e la morte. Del mondo ho udito l'urlo cieco di un dolore profondo, adesso ho paura di ciò che ho creato e so che la terra mi ha già condannato. Thank you.

c'è tanta luce in quel silenzio, la luce dell'eternità. Uomini soli nello spazio, ma il mondo non li scorderà. Uomini soli nello spazio, ma il mondo non li scorderà. Thank you.

grande a tutti noi. Tra noi amici un certo Giuda lo baciò. Thank you. sera. Non c'è posto per l'amore, tanto spazio eppure l'uomo è un bambino che non sa mai pensare a se stesso. Rabbia, egoismo e la libertà annegata in un fosso. Cara, com'è grande la paura. Una vita vera come uno straccio giace ormai ai nostri piedi di piombo, prima ancora di volare. Come mai muore sempre il colombo? We'll be right back. Superman. Sua sex machine. We'll be right back. nostra occasione. Non sciuparla così dietro quella porta. Anche lei capirà. Trovato l'amore, andi insieme.